Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Minuti, buongiorno a tutti. No, noi non parleremo delle elezioni in Francia. Come non parleremo delle elezioni in Francia? Basta, tutti parlano delle elezioni in Francia. Noi parleremo di tutto quello che volete, ma non di, solo di quello non parleremo. Giustissimo, io farò di meglio, perché io stasera sarò a Parigi. Quindi vado a controllare. Sì, sì, è vero. È un viaggio regalato per il mio compleanno, e quindi vado a fare 3 giorni a Parigi. E poi confesso questa cosa, non sono mai stato a Parigi, quindi è la prima volta nella mia vita, sono molto emozionato. E ci vado col mio amore che me l'ha regalato per il mio compleanno. Ma che bello, quanta bellezza! Non vai a fare l'osservatore elettorale, no? Quelli no, che vanno, no, no, no, no, quello non sono ingaggiato come secondo lavoro, no, no. Non sono in grado. Faccio corrispondente volentieri per i prossimi 3 giorni. Va bene. 800 24 00 24, cari ascoltatori, stiamo insieme fino alle 10. Vi aspettiamo per commentare quello che volete, per parlare delle vostre belle notizie della settimana, per indovinare insieme a noi un personaggio della settimana. Vado a dare subito il primo indizio, così rompiamo il ghiaccio. È un'icona. 800 24 00 24. Già un bel aiutone, questo qua. Boom, così. Un'icona. Allora iniziamo, un po' di riepilogo della settimana e poi belle storie, vai. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul testo unificato delle proposte di legge norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Dichiaro aperta la votazione. Bene, allora mi pare che hanno votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 326, contrari 37, la Camera approva. E questo era il voto alla Camera della legge sul biotestamento, che poi passerà al Senato. Un inizio sicuramente per l'Italia, ma insomma, è importante. Sappiamo che ci sono sensibilità diverse da questo punto di vista, ma insomma, una legge che stabilisca il diritto alle persone di poter scegliere come gestire il proprio corpo e non vedere dei nostri connazionali che devono andare all'estero per poter scegliere come gestire gli ultimi momenti della loro esistenza. Questo è una cosa di civiltà, e noi ieri abbiamo addirittura messo in testa la nostra Sipo 5. Certo, delle notizie importanti e migliori. Sì, penso che sia importante avere il diritto di poter rifiutare le terapie che ognuno sceglie di rifiutare, insomma, la libertà di poter scegliere quali terapie approvare e quali no, e di non demandarla totalmente al medico. Gabriele Del Grande, la storia di Gabriele Del Grande, fotoreporter, giornalista, regista toscano, trattenuto in Turchia, non si sa nemmeno bene per quale ragione. È stata la settimana anche di questa storia. Gabriele è persona conosciuta, Gabriele è persona che sempre ha dato voce a chi non ha voce, e ora ha chiesto lui di dar voce a lui, quindi dobbiamo mobilitarci tutti per dargli voce, per far sì che torni a casa libero e dalla sua famiglia. To carry on, is it 'cause you're just like How Today di Mika per introdurre il primo ospite di oggi. Dopo due argomenti importanti come quelli che abbiamo appena toccato, il biotestamento e la storia di Gabriele Del Grande, noi andiamo su una cosa molto molto più leggera, diciamolo subito, perché però riguarda tutti, perché tutti abbiamo fatto almeno una gita scolastica. Gite scolastiche, credo. Arriva anche la primavera e tutti... è momento di gita, anche se sembra, pare, forse, si mormora, no, che in realtà non tutti faranno le gite scolastiche, sempre meno scolaresche fanno le gite scolastiche. Stanno un po' cambiando le cose. Ci chiediamo come mai. Questo è un non si può fare, ma noi vorremmo che si potesse sempre fare, andare in gita scolastica. Ne parliamo con la preside dell'Istituto Capirola di Leno a Brescia. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, lei è una, diciamo, fervente sostenitrice delle gite, tant'è vero che lei da anni porta le sue scolaresche dove? Ce lo dica? Allora, sono sostenitrice nei termini in cui la mia equipe, quindi i miei docenti, sì, che ne ho 300, collaborano e credono in un progetto educativo anche tramite le gite, naturalmente. Certo. Però sono Adesso, enorme. No, sì. Ecco, li portiamo un po' dappertutto. Dipende. Però lei li porta in America anche. Allora, questo pallino dell'America è verissimo. Da 16 anni riusciamo e accompagniamo dei ragazzi, gruppi abbastanza corposi, New York o Boston, a secondo, diciamo, degli itinerari che proponiamo e scelgono. Anche a fare un salto, i più grandi forse, a vedere come funziona la Columbia University. Alla Columbia University abbiamo un accordo, sì, e questo per onestà intellettuale. Io ho con me un docente americano che insegna da me da sempre e quindi è abbastanza, diciamo, fattibile, sostenibile un viaggio di questa portata, perché non è dietro l'angolo. Beh, la Columbia University, la Federal Reserve, abbiamo degli ex colleghi che insegnano in America e abbiamo tenuto, diciamo, un bel legame. Adesso poi ci parlerà meglio anche di queste gite che fate, con quale spirito lei accompagna e fa accompagnare i ragazzi in un viaggio così importante. Però la notizia da cui siamo partiti è che invece sembrerebbe che in molte classi italiane, in molte scuole italiane, c'è un problema con le gite scolastiche, perché addirittura alcune statistiche, scuola.net ha fatto questa statistica, 2 classi su 5 sono a rischio di non fare gite scolastiche quest'anno, e il motivo principale sembrerebbe che essere questo: i professori hanno in qualche modo paura di arrischiarsi, insomma, di arrischiarsi, sì, esatto, in questo accompagnamento di ragazzi che, glielo chiedo, sono così terribili, sono sempre più scatenati? Insomma, a me quella statistica sembra un po' forte, però ci può anche stare, nel senso, io parlo da scuola superiore, naturalmente, istituto superiore. Ma dice forte, dice forte nei numeri o forte nelle motivazioni per cui le gite non si fanno? Ma nei numeri 2 su 5 mi sembra forte. Poi è vero, il calo della partecipazione c'è stato, le motivazioni sono le più varie, e compresa anche un po' la crisi economica per i costi, qualcosì. Poi la normativa che ha portato gli insegnanti veramente ad assumersi più responsabilità di quelle, diciamo, che nella normale attività uno non dovrebbe assumere, parlo di controllo gomme, anche se ritirata, piuttosto che altro. Però dobbiamo anche parlarci, cioè i ragazzi fuori dall'aula spesso si comportano meglio, io questo lo sostengo, sarò stata fortunata, avrò avuto dei cani fuori da scuola si comportano meglio che a scuola, dice? Ma io, la mia esperienza porta questo, però sì, per comportarsi meglio fuori da scuola vuol dire che c'è una politica scolastica, c'è un'attenzione. Se tu per partecipare devi anche avere comportamenti di un certo tipo. Dopo, la notte fuori, lontani dai genitori, o insomma, tutti l'abbiamo provata e tutti l'abbiamo cercata, e guai se non ci fosse stata. Perché poi diventa quello un momento nel quale forse per la prima volta molti ragazzi possono trascorrere un giorno, due, un periodo fuori casa, fuori dai genitori, quindi la voglia, come dire, di trasgredire viene naturale. Credo che sia un po' anche... E guai se non ci fosse, esatto, vorrei dire, guai se non ci fosse, però il limite di... autocontrollo, di responsabilità, insomma, o gliel'abbiamo dato negli anni scolastici oppure abbiamo anche un po' fallito come educatori. Poi detto questo, il cretino sul balcone l'ho avuto anche quest'anno. Ah sì? Non è che si possa dire no, non succederà. l'ho avuto, va bene, pagherà nel senso che insomma sei uscito, eri sul balcone, hai procurato allarme, l'hai fatto per stupidaggini, ok? Però ti sei beccato 20 giorni di sospensione. Ah, lei dà 20 giorni di sospensione a uno, insomma, che fa una cosa del genere in gita. Pare 15. Ci vuole severità, quindi lei sta dicendo, no? Vabbè, insomma, non sai cosa hai creato ai docenti lì, insomma. Ecco, che cosa crea in questo caso? Molto allarme, molta paura. Eh beh, molto allarme, molta paura, e poi fortuna non è successo nulla. Mm. Ma cosa sono le... È proprio fresca, quindi non ho... È proprio fresca, è accaduta da poco questa cosa qua? È accaduta da poco, sì, in Italia comunque è accaduta da poco, va bene, però il ragazzo minorenne, che no, ero sulla finestra, non sul balcone, che ci facevi, insomma. Questa è una cosa che immagino, cioè, spaventa moltissimo un insegnante. Quasi, però se mi cadi, come ti è successo, se poi che bisogno hai di uscire, vuoi stare con una ragazzina, gli insegnanti comunque erano lì. Poi transitano sfortunati o sfigati, sono dei carabinieri che passano il controllo, li vedono, entrano in albergo, fortunatamente. Diciamo, certo. E quindi, ed erano al primo piano, però stavano a 8 metri d'altezza. Dico, questo mi è appena successo la settimana scorsa, o 10 giorni. Quindi non si nascondono i pericoli e le grandi responsabilità. Poi tolte le indennità ai docenti, quindi è puro volontariato. Perché, però quello che io dico, questa è una domanda che le volevo fare, in effetti è vero, gliela faccio, poi le chiedo di rispondere meglio magari dopo l'informazione sul traffico. È vero, noi abbiamo appunto letto che da 2 anni i docenti non hanno più l'indennità per andare in gita, in alcuni casi sono i ragazzi stessi che in qualche modo fanno delle collette o pagano questa indennità, è così? Oddio, un po' un artificio contabile, diciamo così, sì. Quando tu ti rivolgi a un'agenzia anche molto seria e via di seguito, ci sono varie modalità, però di solito se c'è una gratuità ogni 15 o ogni 20 ragazzi, è chiaro che quel costo viene un po' ripartito nella quota dei ragazzi. Viene un po' spalmato. 800 24 00 24, cari ascoltatori, vi aspettiamo anche per sentire i vostri racconti delle vostre gite scolastiche o dei vostri figli, se i ragazzi sono, come sembra da questa statistica di scuola.net, così scatenati da ubriacarsi, in alcuni casi drogarsi, forse scatenare delle risse, salire sui balconi tanto da spaventare i docenti che non vogliono più andare in gita con loro. 800 24 00 24, ne parliamo con la preside Ermilina Ravelli dell'Istituto Capirola di Leno di Brescia, che invece lei, nonostante tutto, con progetti educativi e con tanta volontà e buona volontà, continua a portare i suoi studenti, quelli della sua scuola, in giro per l'Italia e per il mondo. 800 24 00 24, tra poco. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta... Eccoci qua, 8:47 minuti, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Allora, la preside Ermelina Ravelli è caduta la linea, credo. Credo che, non so se si è spaventata, forse perché volevo fargli una domanda, però lei non sa quale domanda avevo. Gliela faccio, poi appena riprendiamo la linea gliela leggiamo anche a lei. C'è un ascoltatore che dice, chiedete alla preside. Ce l'abbiamo, Ermelina, buongiorno. Sì, ci sono. Ecco, ci qua. Sono. Buongiorno. Era caduta la linea. Senta, c'è una... È il bello di disturbare una preside anche la domenica mattina, e di questo siamo, vabbè, molto contenti. Allora, c'è un ascoltatore che dice, chiedete alla preside di farvi leggere il documento di assunzione di responsabilità che le scuole fanno firmare ai docenti prima di ogni gita, così capirete perché per 1.500 euro al mese molti non vogliono farle. È vero? C'è un documento impegnativo? È verissimo che l'assunzione di responsabilità formale che firmano, io da dirigente preside sono costretta, diciamo, gliela faccio firmare, è verissimo, nessuno si muoverebbe se, diciamo, attentamente devo rispondere di queste situazioni. È un po' come quando uno, scusi, è un po' come quando uno firma qualunque cosa in banca, qualunque documento ti danno in banca, sono 8 pagine che se le leggi tutte ti passa la voglia, o un'assicurazione, queste cose qua. Oddio, precisiamo bene che comunque sono coperti da assicurazione, sì, o normale della scuola o personale o anche integrativa. Però il buon senso, il senso civile, l'accompagnamento. Poi io punto molto, i ragazzi a scuola portano dentro tutto, portano tutti i disagi che hanno in famiglia, nella società, li portano a scuola. Se abbiamo un consiglio di classe che sa guardare bene negli occhi i suoi ragazzi, anche quando escono sa con chi va, e le classi veramente turbolente ci sono o che hanno problematiche varie, il primo anno non vanno, comportano bene, migliorano, il secondo le possono andare o il terzo. C'è la famosa minaccia: se non vi comportate bene non vi portiamo in gita. No, migliorate nel senso, perché la gita deve essere istruzione non distruzione. Però succede un po' di tutto, nel senso che o lì cerchiamo di motivarli al gusto della bellezza, alla curiosità, a conoscere. Non vanno a New York se non conoscono Brescia, perché succede anche questo. Certo, New York c'è la fila, però io ho fatto le riunioni oggi con docenti, genitori e studenti per New York dell'anno prossimo, perché è un viaggio che va preparato, un investimento in capitale umano, in formazione, costa e via di seguito. Però non è che si può improvvisare. Idem gli altri, cioè o anche noi docenti cerchiamo di far apprezzare questo momento, questi giorni, sono tanti motivi, però sappiamo che è vero che i ragazzi l'aspettano con gioia questo. Certo, io intanto i furbetti della pasticca ci sono ovunque. Io intanto rilancio con gli ascoltatori, rilancio con gli ascoltatori all'800 24 00 24 se vogliono chiamarci per farci i loro racconti delle loro gite scolastiche, anche dei figli, perché magari in questo momento all'ascolto ci sono più probabilmente genitori che non figli, non è detto. Poi cerchiamo un personaggio della settimana, ricordiamo, preside, questo non c'entra con l'intervista, se no magari mi si confonde. Beh, però può partecipare anche lei. Il primo indizio è che è un'icona il personaggio che andiamo cercando, 800 24 00 24. Però presidente, noi mettiamo in palio un libro la domenica mattina di questi tempi, quindi vedi che siamo allineati nel campo dell'istruzione con lei. Senta, ma in questi anni, no, nei quali lei è diventata preside, prima credo che fosse un insegnante, e ha portato da 16 anni a questa parte i ragazzi in gita a New York con questo scambio con la Columbia University, ha visto i ragazzi cambiare? Sono diventati più scatenati? Si giustificano queste preoccupazioni degli insegnanti? No, diciamo che su New York si sono calmati, perché i comportamenti sono migliorati, cioè hanno visto regole diverse ma applicate. Se sbagli, qualche stupidaggine fatta, hanno pagato immediatamente. Quindi su New York io la ricaduta, una volta fatto ben capire che New York non è l'America, perché New York è New York ma l'America è un'altra cosa. Molto quando giusto. Ho visto tutti quei clochard per terra e tutt'altro, e guardati, perché insomma è un viaggio che viene fatto, ma insomma anche 30 chilometri a piedi al giorno, pur di visitare, di vedere, di correre, e quindi tornano sempre molto entusiasti e con un occhio anche un po' diverso sulla loro americano. E questo è per onestà intellettuale nostra e via di seguito. Senta, ma un'altra cosa che le voglio chiedere: i problemi economici ci sono più oggi più di ieri da parte delle famiglie? I problemi economici sono più oggi di ieri, naturalmente. Però New York è il più costoso. Si inizia un anno prima, ci credi, vai a lavorare, fai dei lavoretti, cerchi di autofinanziarti. I suoi studenti fanno anche questo, fanno anche dei lavoretti per pagarsi questa gita? Molti, e soprattutto gli stranieri, lavorano pur di riuscire a partecipare, e con grande sorpresa, dico gli stranieri perché siamo una scuola con un alto tasso di studenti non italiani, indiani e pakistani a New York hanno sempre lo zio taxista o lo zio che lavora, quindi è anche un motivo di... Beh, ma questo mi sembra molto bello, sì. Mi sembra molto che faccia parte della didattica il fatto che uno addirittura l'anno precedente deve iniziare ad organizzarsi, perché se vuoi andare a New York devi anche contribuire. Se la famiglia è seria, questo è il messaggio: la gita molto te giusto. La fai da solo, il viaggio te lo fai da solo. Però devo dire che la gita a New York è anche molto allettante, perché ai miei tempi al massimo ti portavano, che ne so, a Venezia per un giorno e mezzo. Quanti giorni li tenete a New York? Ma i ragazzi hanno dai 10 ai 12 giorni, poi lì il problema dei voli, partiamo molto prima anche per problema di costi, però l'aspetto importante, io ho molti ragazzi che vanno, portano fuori le pizze la sera o fanno dei lavoretti pur di autofinanziarsi, ma ho moltissimi esempi, quindi anche una forma di investimento. Poi ragazzi che grazie alla visita a New York, poi sono andati a studiare a New York o hanno incrementato, diciamo, gli scambi o alla pari, ne ho molti. Anche 16 più lei altro, prima ha iniziato questa intervista dicendo forse sono stata fortunata, invece temo che lei è semplicemente molto brava, perché mi sembra straordinaria la cosa invece che sta facendo. Ma insomma, o li metti a corrente, noi siamo in periferia, ho una scuola molto, molto forte perché sono 2800 alunni e 300 docenti, quindi in questa situazione, però bravi, io penso anche un bel po' di fortuna e docenti che mi hanno un po' seguita. Certo. I docenti non hanno mai voluto accompagnare. Un messaggio di incoraggiamento per tutti gli insegnanti, per tutte le scuole che hanno difficoltà a realizzare delle gite scolastiche. Abbiamo voluto farlo dare proprio da lei, cara preside Ermelina Ravelli. Grazie per essere stata con noi. Buona domenica, in bocca al lupo a lei e tutti i suoi studenti per le gite e non solo. E a presto. Grazie per essere stata con noi. Insomma, grazie. Si può fare, non è semplice. Stando a queste statistiche di scuola.net, ci sono problemi nel fare le gite scolastiche perché insomma, i docenti sono in qualche modo preoccupati dai rischi nei quali possono incorrere accompagnando queste scolaresche. Però lavorandoci, hai visto, durante l'anno, per tempo, si può fare. 800 24 00 24, aspettiamo i vostri racconti. Abbiamo già... Chi abbiamo? Giorgio, che ci chiama dalla provincia di Macerata, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Secondo me sono i Simpson, che hanno compiuto 30 anni questa settimana. Ok, personaggio della settimana, abbiamo detto l'indizio, un'icona, i Simpson, che hanno compiuto 30 anni questa settimana. Celeberrimo cartone, poi cartone animato è riduttivo, no Giorgio? Perché è più che un cartone, questo è proprio una... un'icona. No? Bravo, esatto. In effetti ci stava caro Giorgio, però non erano i Simpson a cui avevamo pensato noi come personaggio della settimana. Grazie però per aver chiamato, perché in effetti era un compleanno Che abbiamo festeggiato molto volentieri. Notevole questo qua, grazie. Anche Giorgio, se ci fa un po' sentire vecchi, ma insomma 30 anni, in effetti tanta roba, cavolo. Daria da provincia di Livorno, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Prego. Sinceramente pensavo di essere stata chiamata per l'intervento sulla scuola. Puoi parlare di quello che vuoi, puoi anche darci una ricetta del casciucco alla livornese. Pensavo cosa dico, cosa devo dire. No, niente, volevo fare complimenti a questi professori perché io ho 4 figli, 3 sono molto grandi, effettivamente ci vuole un bel impegno, una bella responsabilità. E poi rispondevo alla preside che non darei 20 giorni di sospensione o 15, ma farei pulire bagni, farei pulire aule, insomma, come si usava una volta, probabilmente più d'impatto. Una punizione. È molto bello stare a casa 20 giorni. Ah, si candida come poliziotta della scuola? Volentieri. Ricordiamo che stavamo parlando di giorni di sospensione a causa di quelli che durante le gite scolastiche saltano da un balcone all'altro rischiando la vita. Eh sì, e facendola perdere credo anche agli insegnanti che assistono alla scena, perché credo che perdi 20 anni di vita in quel momento lì. Grazie comunque anche a questa ascoltatrice. 800 24 00 24, cerchiamo un personaggio della settimana, è un'icona. Ci risentiamo dopo il GR delle 9, a tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. La réalité, c'est que le fondamentalisme islamiste lance une guerre. Il n'était impossible de l'amener à zéro. Les terroristes traversent nos frontières en toutes circonstances et avec une tranquillité absolue. Ça, c'est lié à Schengen, c'est-à-dire à l'abaissement des frontières qui nous a été imposé et qui a été accepté par nos dirigeants politiques depuis des années. Vabbè, avevamo detto che non avremmo parlato delle elezioni francesi e invece non ce l'abbiamo fatta, abbiamo parlato anche noi. Beh, abbiamo fatto parlare Marine Le Pen, Marine Le Pen, Marine Le Pen, esatto. Anche che, perché insomma, volevo ripassare il francese, visto che sto per andare là, insomma, giusto, mi agito molto. Giusto. Beh, la domanda di sottofondo è: questo appello a chiudere le frontiere avrà un effetto sull'elettorato francese, dato che anche questi attentatori, ahimè, erano interni in qualche modo, erano già stati conosciuti dalle forze dell'ordine, dalla polizia, erano stati in carcere, quindi le frontiere in questo caso sembra che c'entrino poco, cioè il cavallo di battaglia di Marine Le Pen. E vedremo. Se... Io mi sono molto preoccupato, scusa, dirò una cosa stupida, perché mi sono detto, io siccome stasera vado a Parigi e mi porto dietro anche il passaporto, perché metti che mentre sono là chiudono Schengen, così all'improvviso, e io come faccio a tornare? Un colpo di vento, cioè, si chiude Schengen e tu rimani là. Rischio di rimanere dentro l'aeroporto come The Arrival, nel senso che non ho il passaporto. Per me si può fare, lo facciamo tranquillamente con te in collegamento all'aeroporto. Ah, perfetto, tutta la vita, perfetto, il telefono, perfetto. Ti faccio mandare un codec al massimo. Quindi questo e è problema anche il risolve. Cambio, secondo me, e vuoi anche il cambio, sì, che esatto. Ogni tanto vieni tu a Parigi, giustamente, e io Milano Monterosa. Giusto, capisco che avresti altri problemi nel rimanere a Parigi, questo sì. 800 24 00 24, cari ascoltatori, vi aspettiamo per indovinare anche un personaggio della settimana che abbiamo bisognerà detto... anche dare un secondo indizio, è un'icona, scusami, sì, il primo sì. Indizio è che è un'icona, il secondo lo diciamo dopo, tra me poco, lo dici tu. Vediamo intanto se gli ascoltatori hanno un'idea. Giuseppe dalla provincia di Savona, buongiorno. Vai, Giuseppe. È WhatsApp, perché compie 6 anni, o ieri l'ha compiuti, ed è un'icona. Pronto? Sì, no, tutti questi compleanni, WhatsApp, io questo me l'ero perso. Ti sei compiuto... perso il compleanno di WhatsApp. Perso, cioè, non mi hanno invitato, come mai? Che è successo? Beh, è assolutamente in tema. E siccome un'icona. Noi spesso scegliamo anche personaggi che non sono dei personaggi umani, ci sarebbe stato ci perfettamente, stava, ma non è il personaggio che abbiamo scelto questa settimana. Però grazie Giuseppe per averci... E facciamo gli auguri a WhatsApp. Come si fa? Forse si scrive tanti auguri su WhatsApp, tutti insieme, tutti e 7 miliardi. Una mega chat mondiale. Marco da Bari, buongiorno, benvenuto. Non c'è. Roberto da Monza, Roberto, buongiorno. Ci abbiamo Marco. Vai Marco. Sì, volevo dire innanzitutto che sono totalmente d'accordo con l'intervista che avete fatto e le risposte che vi ha dato la preside prima. A proposito del tema gite scolastiche, è sempre più difficile da fare. Sì. Esatto. Io porto la mia esperienza di 27 anni di organizzazione di viaggi come preside di una scuola però media inferiore, e capisco che nella scuola superiore ci sono delle problematiche un po' più complesse, ma il problema, figli piccoli, problemi piccoli, figli grandi, ragazzi grandi, problemi grandi. Sì, ci sono i problemi anche. Il problema è che i viaggi di istruzione, come correttamente bisogna chiamarli, sono delle splendide occasioni di apprendimento e anche di socializzazione che non vanno assolutamente trascurate nel rapporto educativo con i ragazzi, ma chiaramente vanno organizzate in una certa maniera, assicurandosi bene delle agenzie e degli alberghi in cui si va, che non abbiano però strutture. Marco, le voglio chiedere, nella sua esperienza, no? Questa difficoltà a fare le gite perché gli insegnanti si rifiutano, esiste? Gli insegnanti si rifiutano perché da un lato non si sentono molto cautelati, ma dall'altro canto anche loro hanno una responsabilità e una necessità di capire quelli che sono gli obblighi e i doveri di un accompagnatore durante il viaggio. Ma credo che proprio perché capiscano i doveri che hanno paura. Quindi capito, lei mi conferma che questa difficoltà c'è? Me lo conferma anche lei? La difficoltà c'è, però voglio dire... Si può superare. Si può superare perché è necessario inserire il viaggio di istruzione in un quadro educativo generale. Va bene, Marco, grazie. No, non voglio tagliare la linea, ma so che ci sono molti ascoltatori che ci fanno magari anche dei racconti personali su delle difficoltà che ci possono essere state, o semplicemente anche su racconti anche divertenti di gite, perché poi quello che conta alla fine è quello, portarsi a casa un'esperienza, no? Un'esperienza sì, di e soprattutto crescita. La socializzazione mi sembra molto giusto, quindi è bello questo derby fra presidi. Anzi, neanche un derby, perché direi che stanno dalla stessa parte, giustamente dicevano, sono molto importanti. Saranno anche difficili da organizzare, ma vanno organizzate. Roberto da Monza, buongiorno. No, ciao. Bellissimi, sono di Lissone, non da Monza. Ci tengo il mio vabbè. Paese. Allora, aspetta, ricominciamo tutto. Roberto da Lissone, buongiorno. Grazie, buongiorno, ciao ragazzi. Come si sta a Lissone? Che tempo c'è? Sì, c'è una bella giornata. Ottimo. Bravo. A Monza quasi, invece piove. Quasi sì. Come a Milano. Ciao ragazzi, volevo dire... Sì. So di non aver vinto perché mi avete chiamato troppo presto. La regina Elisabetta che ha compiuto 91 anni questi giorni. Oh, ma solo compleanni oggi. Eh beh, giusto, la regina va bene. Ha compiuto 91 anni, cavolo, sì, è vero. Sì, sì, sì, sì, sì. Vedi che non lo sapevi, qualcosa ma, ti ha fatto imparare. Ma è per ma questo che facciamo il gioco. Infatti ne siamo contenti, anche perché credo che sia stata il personaggio della settimana quando ne ha fatti 90, non è che possiamo farlo tutti gli anni. Aspettiamo i 100, aspettiamo i 100 e ti richiamiamo, quindi fra 9 anni. Solo cifre tonde, capito Roberto? Grazie comunque. Beh, grazie. In effetti il gioco è bello anche per questo, eh. 800 24 00 24, abbiamo anche, c'abbiamo un altro ascoltatore, l'avevo visto prima in linea, no, non c'è, allora è caduta la linea, lo richiamiamo tra poco. Allora intanto diamo le informazioni sul traffico e poi torniamo tra poco. 800 24 00 24, anche con un secondo indizio, ma tra poco. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi ti conviene. Vi presenta Yes, the door is always open and the light's on in the hall, and you know that I'll be waiting if you ever come to call. When night falls on that mansion and you're lying in his bed, when he begs you for attention, do you think of me instead? The door is always open. Ho pronunciato correttamente, Carlo, tu che sei il nostro esperto di lingue estere. Ma non estere. Sono esperto per niente. La porta è sempre aperta, questo country di James Johnson. Senti cosa andiamo andati a cercare. Caro Mauro Felicori, buongiorno, buona domenica. Buongiorno, buona domenica a tutti. Buongiorno. Sicuramente abbiamo pensato noi, la porta della reggia di Caserta, quella è sempre aperta. Sì, certo. Non chiudete mai. Ma in generale l'orario è chiuso il martedì, però quest'anno i martedì importanti per i ponti degli italiani e dei turisti siamo aperti. Ah, quindi anche il 25 aprile? Subito, cioè secco, inizia così, subito così notizia. Annunciando che ci sono 7 martedì che dove, nei quali storicamente la reggia è chiusa il martedì, e invece da quando c'è Filicori è stato deciso che quindi il 25 aprile sarà aperta, il 2 maggio sarà aperto, ho visto Ferragosto sarà aperto, insomma non ci sono più martedì. Certamente, direi che nel tempo, e su questo ho il piacere di potervi dire che anche i sindacati hanno un orientamento favorevole, vorremmo aprire tutti i martedì almeno nell'alta stagione, cioè diciamo. Ma i sindacati sono favorevoli, però per usare l'espressione di Rovazzi, lei fa di tutto per stare un po' sul ca ai suoi dipendenti. No, guardi, cioè, non gli dà un giorno di tregua. La grande parte dei dipendenti sta partecipando a questa rinascita, sì, della reggia, a cui peraltro l'informazione contribuisce, vi ringrazio. Beh, noi abbiamo raccontata questa storia, insomma, quando lei è arrivato, quanto tempo fa è arrivato alla reggia? Un anno e mezzo, nell'ottobre 2015. È un anno e mezzo e invece sembra tantissimo, di questo siamo molto contenti. E anche la seconda, diciamo, notizia un po' l'anticipata, dicendo che in realtà i sindacati la appoggiano, mentre all'inizio ci sono state un po' di problematiche. In questo momento, leggendosi, ha la sensazione che anche tutti i lavoratori si sentano parte di una squadra che va nella stessa direzione, che vuole, esatto, che esatto, è felice, che vede finalmente che a Pasquetta arriva il record di ingressi con 9.000 presenze, passa, e è bello vedere questo. È più che un direttore, lei è un mister, è un allenatore. È un concetto giusto, magari lo sapessi fare anche alla grande, diciamo. Comunque, cioè, magari lo sapesse fare anche in Serie A? Voleva lo stipendio di Mourinho? Anche la metà. Bastava. Senta, però invece c'è stata un po'... A Pasqua abbiamo fatto più 45% rispetto all'anno scorso, dove già avevamo fatto un grande record rispetto all'anno prima, quindi è una vera e propria rinascita che è davanti ai nostri occhi. Le voglio chiedere però un parere su perché c'è stata un po' di polemica, per esempio, per l'apertura nel giorno di Pasqua di luoghi legati ad altre attività, non culturali ma commerciali. Mi riferisco alla questione, per esempio, dell'outlet di Serravalle. Si è discusso molto se è giusto o no lavorare, si è riaperta questa questione. Ci sono quelli che dicono, beh, bisogna spingere perché anche le attività commerciali siano aperte, dando la possibilità a tutti, anche in giorni di festa, di esercitare questa che ormai è una vera e propria attività di costume che fanno tutti, andare a fare spese, andare a fare compere. Però le voglio chiedere, lei che spinge tanto per tenere aperto un luogo di cultura come la Reggia di Caserta, è schierato anche lei su questa questione di aperti sempre comunque, oppure c'è una differenza, per esempio, tra commercio, tra fare acquisti e invece andare a fare consumo di cultura, cioè venire lì, farsi una passeggiata alla Reggia, guardare quanto è bella la Reggia, eccetera, eccetera. C'è una differenza secondo lei, oppure è lo stesso discorso? Una differenza certamente c'è, perché direi che i luoghi di cultura devono essere aperti. Questa è una specie di missione della Repubblica, la diffusione della cultura. Questo non avrei nessun dubbio. Sugli esercizi commerciali, sinceramente, ho delle idee un po' contraddittorie, nel senso che penso che il diritto così a una vita anche familiare, domenicale, sia importante. D'altra parte è una tendenza inesorabile quella dell'apertura. Forse si può risolvere pagando anche un po' meglio i dipendenti, no? Per esempio, questo potrebbe essere giusto, un'idea. Tornare a pagare, ecco, degli straordinari, in maniera che uno sia anche incentivato. Cioè, ti do un motivo per venire a lavorare a Ferragosto. Ecco, normalmente i problemi si risolvono così. Certamente. Ma voi fate così, per esempio? No, adesso no, lo colgo no, subito, becco subito no, in castagna. No. Allora, diciamo che no, contrattualmente il lavoro festivo è pagato di più, ma sì, penso che questo venga anche nel privato. Sì, beh, poi dipende anche dai contratti, insomma, nel vostro caso certo, che tipo di contratto c'è? Dalla forza lavoro, diciamo, a 25 anni uno non sa guardare la domenica o il lunedì. Ma un suo dipendente, Felicore, un suo dipendente, non so se lei lo sa esattamente a livello di busta paga, eccetera, del singolo, quanto guadagna in più venendo a lavorare a Pasquetta, per esempio? Lei lo sa, un 30%, 100% in più, 300%? Onestamente non lo so che c'è un'indennità comunque interessante, ecco, questo sì, la cifra non glielo so dire, mi dispiace. Comunque l'incentivo economico resta sempre una cosa che funziona. Senta, facciamo una gara con Firenze, perché a Firenze, agli Uffizi, non solo, si sono un po' svegliati, secondo me hanno visto che lei sta facendo un sacco di iniziative, e per esempio le hanno sfilato la sfilata di Gucci. Lei aveva detto, visto che non la fanno al Partenone di Atene, possono venire anche qua alla Reggia di Caserta. Si era candidato, si qui era candidato in diretta radiofonica. Secondo me qualcuno l'ha sentita a Firenze e l'ha fregata. Come mai? D'altra parte il fascino di Firenze, diciamo, per quanto ci impegniamo, è una sfida. È difficile. Diciamo, mission impossible, no? E quindi Gucci va a Firenze, va bene, va a Palazzo Pitti. Provato, ma purtroppo la moda sotto Roma, tranne quest'ultima incursione di Dolce Gabbana, la moda sta nel centro-nord. Sì. Qual è l'incursione di Dolce Gabbana? Quella che ha fatto a Napoli, ecco, l'incursione hanno fatto una sfilata nei vicoli del centro storico, tra l'altro ha avuto anche un certo successo, anche lì polemica naturalmente, perché la città trasformata in set ha suscitato polemiche, però... E prima ha detto Mission Impossible, perché è in realtà il nuovo Mission Impossible viene girato alla Reggia di Caserta? non lo so, c'è questa, hanno fatto dei sopralluoghi, quelli di Spielberg, per girare il film sul ragazzo Mortara, il ragazzo che fu convertito al cristianesimo a forza, è possibile che si faccia, ecco, i sopralluoghi sono stati positivi. Ma è venuto lui in persona, Spielberg? No. Ha mandato qualcuno. È venuta la produzione. Sì. Quindi c'è in aria questa cosa di girare il film di Spielberg, una parte alla Reggia di Caserta, però non avete ancora firmato nulla. No. Comunque furono girati due episodi di Star Wars, di cui uno molto importante. Certo. Beh, abbiamo dato notizia ieri che... Anche l'ultimo 007 doveva essere girato alla Reggia, poi non si poteva fare, ecco, diciamo da noi non ci sarebbero problemi. Abbiamo dato notizia ieri che uno dei prossimi episodi di Star Wars verrà girato anche sulle cime di Lavaredo, e quindi sempre l'Italia in primo piano. Senta, però, tornando alla gara con Firenze, che mi appassiona molto questa gara tra voi e Firenze, perché voi ne avete pensate mille e fatte 100, Nardella ha detto potremmo aprire gli Uffizi la sera per il cinema estivo. Anche questa è una bella iniziativa. Pronto? Ma è rimasto senza parole, Federico. Io più che gli eventi, sono più, anche se mi piacciono molto gli eventi, anche nella vita ne ho organizzati, ma più che gli eventi adesso sono interessato alle cose strutturali. Per esempio, mi piacerebbe rifare l'illuminazione del parco in modo da poter aprire il parco la sera, anche senza concerti, anche senza niente. Noi, diciamo, abbiamo un evento che si chiama Reggia di Caserta e renderlo fruibile, diciamo, per molte ore, tutto l'anno, per adesso è, diciamo, la cosa per me prevalente. Perché, perché al momento alla Reggia dopo una certa ora non si può più entrare per mancanza di illuminazione? Sì, sì, sì, il parco è chiuso la sera. Glielo chiedo perché non lo so. Abbiamo fatto l'anno scorso un'esperienza di osservazione delle stelle in agosto e quest'anno ne rifaremo. Ah, approfittando del fatto che ci sia una bassa illuminazione, giustamente. sì, è bravissimo lei, perché riesce in qualunque modo, è veramente in kernel si può fare, in tutte qualunque le condizioni. Modo, esatto, trasforma le condizioni, ed è molto bello anche quello che ha appena detto. Abbiamo un evento che si chiama Reggia di Caserta, cioè invece che inventare un evento da fare lì e voi diventare sfondo di un evento, l'evento siete voi. Esatto, esatto. Per quanti soldi mettiamo, un evento così non riusciremo a farlo. Dunque, adesso, quando venne il G7 nel 97, fu rifatta tutta l'illuminazione. Poi, colpevolmente, una lampadina si rompe oggi, un filo marcisce domani. Adesso è stato tutto lasciato in malora. Senta, perché per gli ascoltatori distratti che dicono: sì, vabbè, ma questo Felicori cosa ci racconta? Di quanto sono cresciute le presenze alla Reggia di Caserta da quando lei è arrivato? L'anno scorso, beh, adesso io non faccio un calcolo così personale, l'anno scorso abbiamo aumentato del 37%, sì. Penso che quest'anno alla fine faremo un 20% sicuramente, e quindi quel milione di visitatori che avevo promesso al mio arrivo ci siamo. Lo raggiungiamo. Ci siamo quasi. Penso di sì, sì, sì. Poi naturalmente lei si è impegnato molto anche per la tutela, oltre che per la valorizzazione della Reggia di Caserta, quindi sono tutti tranquilli. Un'altra notizia, un'altra polemica che riguarda questo sempre delicato equilibrio tra tutela e valorizzazione dei beni culturali. In Italia si discute tanto, di cui lei è un maestro, è invece maestro di equilibrismo, ma in senso positivo. C'è questa polemica per la donazione che Italy di Farinetti vuol fare al Cenacolo di Milano per una ristrutturazione che ha a che fare, credo, con la qualità dell'aria che entra all'interno del cenacolo, perché non si rovini e possa essere visto da più persone. Ma il Codacons ha fatto ricorso perché dicono vogliono vedere il contratto, la trasparenza. Farinetti si vuol fare della pubblicità, credo bene che si voglia fare della pubblicità, se no non donerebbe un milione di euro. Lei che ne pensa? Guardi, io se c'è realmente necessità di un impianto, perché bisogna anche stare attenti agli interventi che sono fatti solo per fare pubblicità. Fare pubblicità è sacrosanto per un'impresa. Sì. Bisogna stare attenti che non prevalga sulla... Allora, cioè lei dice il problema non è farsi pubblicità, ma capire il tipo di intervento, che sia un intervento giusto, mirato per quello... Se c'è davvero necessità è sacrosanto, purché anche lì, come insegnò la vicenda del Colosseo, che sembrò paradossale, ma non lo era del tutto, naturalmente in un clima competitivo. Può darsi che ci sia un'impresa che sia disposta a mettere 2 milioni anziché 1, no? Può darsi che siano imprese che sia disposta a metterne 3, quindi secondo me è sempre giusto fare le gare anche quando si tratta di mecenatismo. Cioè lei dice non accontentiamoci, nel momento che c'è Italy che vuole mettere 1 milione, non vuol dire che bisogna subito dire sì, certo che sì, perché magari ci sono altre aziende che vogliono metterci di più e fare anche una cosa, esatto, più vicina a un restauro, piuttosto che questa che invece si prefigge di assicurare una corretta ossigenazione. Secondo me andrebbe... No, uno dice c'è da fare l'impianto. Abbiamo un'offerta del signor Farinetti che vuole mettere 1 milione di euro. C'è qualcuno che vuole mettere di più? E se anche l'impianto ne costa... Se uno mette 2 milioni, resterà 1 milione per fare qualcos'altro di importante. Sì, sì, ma anche perché comunque 1 milione lo mette Farinetti e l'altro 1 milione lo mette lo Stato. Quindi già costa, mi sembra, 2 milioni e 2, come comunque, giustamente detto, lei sa. Visto che sto parlando alla Radio del Sole, direi che, come sempre, la competizione nella trasparenza è quella che poi risolve i problemi, no? Se qualcun altro che vuol mettere di più, lo troveremo. Se non c'è, viva Farinetti, certo, è stato generoso non voglio dire nulla contro Farinetti. Che no, no, è chiarissimo, è chiarissimo. Molto bene, molto bene. 800 24 00 24, cari ascoltatori, se volete raccontarci anche l'ultima visita alla Reggia di Caserta che avete fatto, se l'avete trovata, come già è capitato altre domeniche parlando con Felicori, migliorata. Tra l'altro un ascoltatore scrive: il Papocchio è stato girato alla Reggia di Caserta, il film quello di Arbore con Benigni di parecchio tempo fa. C'entra qualcosa con la Reggia di Caserta o no? No, onestamente non lo so. Io pensi che ci sono ancora dei locali che non ho visitato. Io il primo ci sono talmente tanti, da imparare, sì, sono io, perché poi stare in ufficio tante volte non mi permette di andare a vedere anche... Non lo so. E d'altra parte i visitatori devono sapere che abbiamo iniziato a migliorare, ma abbiamo ancora tanti problemi. Il primo che li conosce tutti purtroppo sono io, quindi... Eh certo. Comunque abbiamo verificato e in effetti... Sì, abbiamo verificato, in effetti il Papocchio è stato girato, sì, una, sì, parte anche... Sì, quasi tutte le scene che in realtà sono ambientate nella Basilica di San Pietro, in realtà sono state girate nella Reggia di Caserta. Ecco, loro hanno anticipato Spielberg. Esatto. Nel 1980 Renzo Arbore anticipa Spielberg. Anzi, secondo me Spielberg ha saputo che Arbore aveva girato un film e ha detto: ci vado anch'io come Arbore. D'altra parte, trovare uno scalone importante come lo scalone della Reggia di Caserta è difficile, quindi capisco che... sia un po' un obbligo per rifare il Vaticano, penso che venire da noi è una delle scelte più quasi obbligate. E con, certo, questa immagine dello scalone della Reggia di Caserta ringraziamo e abbracciamo virtualmente la Reggia e il suo direttore Mauro Felicori. Grazie. Grazie, buon lavoro. In bocca al lupo. Grazie, verremo prima o poi. Faremo... E dobbiamo andare alla Reggia di Caserta, assolutamente. Qualche puntata in trasferta alla Reggia di Caserta sarebbe bello farlo, soprattutto perché un si martedì, ispira una bella aria, a questo punto. Un martedì. 800 24 0024, facciamo la pausa, torniamo tra pochissimo. Io sono Ciccio Merolla, sono un terrone unito ad altri terroni e stiamo andando a Pontida a portare la musica del sud. Per una volta la musica avrà il potere di rompere un muro, di abbattere un muro, e siamo felici per questo. E vabbè, questa era Merolla, che è uno dei musicisti insieme a un altro membro dei 99 Post che sono andati provocatoriamente a raduno di Pontida, però diciamo a portare un messaggio di musica e di fratellanza, spero. Allora, 800 24 00 24, chi abbiamo in linea? Abbiamo qualche ascoltatore? Aspetta che non trovo la schermata, se la trovo, sì. Domenico da Caserta, per l'appunto, abbiamo appena finito di parlare con Mauro Felicori, vai Domenico. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Che buongiorno felicità a te questa mattina poter parlare con voi. Vai, oh, anche noi. Entrare al direttore della Reggia. E la terza cosa, sei un dipendente della Reggia di Caserta? No, sono un frequentatore del parco. Molto bene, ecco, molto bene. Com'è il parco? Appunto al direttore, sì, lo farei. Sì, vai, perché sentiamolo. Da quest'anno a noi abbonati ha, diciamo così, inibito l'ingresso alla parte più bella proprio del parco, cioè il giardino inglese. Cioè, non si può più entrare? No, per noi no. E come mai? Per quelli lì che, diciamo, comprano il biglietto annuale, da quest'anno hanno deciso così, probabilmente per, diciamo così, limitare tutte le persone che abitualmente fanno un po' di jogging, un po' di, diciamo così, di ginnastica per evitare... perché, certo, perché quelli che fanno il biglietto annuale sono persone, sono abitué e quindi vanno anche, sì, per esempio, sono... per fare jogging e non vanno, sì, a visitare semplicemente la Reggia, giusto? Beh, c'è sempre qualcosa da valutare in questo parco . E non vanno negli appartamenti. Certo. Diciamo che ha una sua logica tutto comunque, questo. Il parco è uno spettacolo. La Reggia, veramente, si vedono tutti i nuovi diciamo, i lavori che sono stati realizzati. Adesso toccherà al parco un ritocco. Sì, infatti il direttore ci ha anche detto che il suo sogno sarebbe riuscire a illuminarlo anche tutto il parco per poter aprire anche tutte le sere. Dai, che tutte bello, le la sera d'estate sarebbe meraviglioso. E registro l'aumento dei turisti. Vabbè, quello è un dato statistico incontestabile. Domenico, volevi intervenire anche su qualcos'altro? Sì. Su personaggio della settimana. Vai, chi è? Dici. Julia Roberts. Perché pare che sia stata nuovamente giudicata la donna più bella del mondo. Pare? Ho sbagliato. No, nel senso, pare giudicata da chi però? A questo punto ci devi dare qualche estremo intorno a questa notizia. Dacci la notizia che c'è sfuggita. In verità non sono così, nei dettagli non sono capace. Fantastico. Di scegliere. No, va bene, giustamente uno sente un personaggio da indovinare, ha orecchiato una notizia e prova e si butta. No, l'ho letta proprio, però non la ricordo. Ecco, bravo, va bene, ecco. Giusto, letta, no, confermo, Julia Roberts è la donna più bella del mondo per la quinta volta. Eletta da chi? Quindi da qualche giuria di esperti, da qualche rivista di moda o di cinema. Vatte la pesca, Domenico, però come avrai intuito, dal magazine People, come avrai intuito, non eravamo preparatissimi su questa notizia che in effetti non avevamo scelto come... Quindi è evidente che non è il nostro personaggio. Va bene, comunque grazie Domenico. Siete fantastici. Sì, grazie anche tu. Grazie mille. Roberto da Milano, vai. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Tutto bene? Sì, perché io partecipo per il personaggio della settimana. Prego. Chi è? Sono anche triste perché Erin Moran. Sei triste? La donna di Happy Days. Sì. Prego. Che purtroppo ci ha lasciato. Ecco, sì. Ah, ci ha lasciato? Io... Sì, insomma, è deceduta e quindi ha trovato giusto, anche la pace, giusto. Come ha scritto su Twitter Fonzi. Certo. Tanto era anche giovane, ho letto adesso la notizia perché non l'avevo vista, 56 anni. Era, in effetti era un'icona anche di quegli anni perché assolutamente. Con quel sorriso strepitoso ci ha fatto era sottiletta così. Di Happy Days. Sì. Caro, ci hai dato una notizia che in effetti, caro Roberto, ci dispiace molto, non era lei in effetti però il personaggio che avevamo scelto. Grazie però per averci chiamato. Che dire, Dario da Trieste, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. A tutti quanti, sì. Il vediamo personaggio, telefonato per il personaggio, approfitto anche sulla Reggia di Caserta perché da ieri ho avuto notizia che Davide Tiziano, che è membro del Consiglio di Amministrazione della Federazione Italiana di Canottaggio, realizzerà alla Reggia, sì, nel parco ovviamente, un avvenimento sportivo e culturale e sociale, e sarà molto importante perché chiamerà in causa migliaia di ragazzi giovani, sì. Quindi questo per quanto riguarda, vedi, la che la Reggia di Caserta è perfetto, abbiamo appena sentito il direttore, notizie. Quindi sarà contento, sì. Ma non è che lei in realtà è Mauro Felicori che sta camuffando la voce per fare perché no, si era dimenticato di dire questa cosa? No, perfetto, assolutamente. Ci dica il personaggio. Il personaggio Gillo Dorfles, la notizia? La notizia ha compiuto 107 anni in questi giorni, un po' in là, è stato, sì, un'icona della cultura, dell'arte. È vero. Ed è una settimana incredibilmente densa di anniversari, di compleanni. Sì. Abbiamo fatto un elenco straordinario. Dario, non era Gillo Dorfles, ma però, siamo felicissimi però... di poter fare, come tutti gli anni, gli auguri a Gillo Dorfles, che compie 107 anni. Più che un'icona, direi che è un monumento. Devo esatto. dire che è uno di quei casi in cui, se nessun altro ascoltatore dovesse vincere, io ad honorem la darei a lei la risposta perché questa era una risposta che avremmo potuto, personaggio che abbiamo potuto scegliere noi. Mi sto impapocchiando, diamo un secondo indizio. Diamo il punto. Secondo indizio, sì. Quindi è un personaggio brillante. Il primo indizio è che è un'icona, il secondo indizio è che è un personaggio brillante. E guardate che questo è un bel aiuto. Look harder. Questa, cari ascoltatori, è una canzone di Moby contro la dipendenza dai cellulari. Perché, ahimè, tocca ammetterlo. Siamo tutti un po' dipendenti dallo smartphone e però a Genova corrono ai ripari soprattutto contro una cattiva abitudine che è guidare la macchina con il cellulare in mano, fare delle telefonate, mandare messaggini. Purtroppo tu, Carlo, non hai la patente, quindi sono salvo. Almeno questo difetto non ce l'hai. Io invece questo difetto ce l'ho, purtroppo, ma non bisogna farlo. E allora ne parliamo con il comandante della Polizia Municipale di Genova, Giacomo Tinella. Buongiorno. Buongiorno a voi. Benvenuto. Che cerchiamo di capire questo si può fare. Allora, pattuglie in borghese ed educazione stradale nelle scuole contro questa diciamo cattiva abitudine di guidare, che è quasi un reato. C'è una legge, tra l'altro, in discussione, credo, al Parlamento, il nuovo codice della strada, che prevede questo nuovo reato, è vero? Più che reato si parla... Infrazione, appunto, del codice, sì, giusto. Sì, di una sanzione del codice della strada, quindi un inasprimento di quelle che sono le attuali sanzioni e una previsione di una sospensione della patente da 1 a 3 mesi per chi è sorpreso a guidare col telefonino. Bisogna dire che questa cosa, che assolutamente andrà prima o poi approvata, questa previsione che al momento non c'è, è ferma in Parlamento da credo quasi 3 anni e non si sa come mai non avanza al Senato. Voi però vi state in qualche modo portando avanti rispetto a questa previsione di questo nuovo codice della strada per questa infrazione nuova di guida col telefonino in mano, perché già chiaramente non si può fare, è una previsione d'accertamento, no? Che se voi accertate questa cosa potete già fare delle multe, immagino, però volete fare di più a Genova, che cosa? Si tratta naturalmente di contrastare questo fenomeno e naturalmente il contrasto avviene cercando di sanzionare questo comportamento col personale che è presente sulla strada. Naturalmente una delle modalità, insomma, di accertamento prevede anche la possibilità di fare dei servizi dedicati da parte del nostro personale anche in abiti borghesi, proprio per contrastare questo fenomeno. Ecco, non è una modalità esclusiva, così come forse veniva riportato nell'articolo, ma è uno delle modalità di servizio per cercare evidentemente di andare a contrastare un fenomeno che è assolutamente pericoloso. Però senta, la domanda che mi viene è ovvia, no? Cioè ha un effetto maggiore di dissuasione vedere il vigile e riconoscerlo e sapere quindi che quel comportamento non lo devo avere, oppure il fatto che, sapendo che girano in borghese, allora in qualche modo io devo stare allerta sempre? Questo è quello che voi volete ottenere come effetto dissuasione? Diciamo che forse la cosa importante comunque del nostro servizio è che tutte queste violazioni devono essere contestate, cioè l'indicazione che viene data al mio personale, sia che sia in abiti borghesi, sia che sia in abiti, diciamo, in divisa, sia quello di comunque nel momento in cui si accerta la violazione di contestarla, quindi di fermare il veicolo e quindi di fare il verbale relativamente alla contestazione, in modo tale che proprio sia chiaro ed evidente qual è il comportamento che è da sanzionare. Ecco, il comportamento invece corretto quale può essere? Si può usare, cioè guidare per esempio con l'auricolare, il telefono acceso dell'auricolare, questo si può fare? Il codice prevede appunto l'uso di questi strumenti con dei kit viva voce oppure con gli auricolari. In questo quel caso uno non incorre in nessuna sanzione? Assolutamente sì. Anche se si può dire che in qualche modo anche avere l'auricolare e tenere una conversazione mentre uno sta guidando può essere fonte di distrazione, però questo... Questo sicuramente può essere, però è chiaro che, diciamo, l'intendimento del codice è quello comunque di avere le mani libere, di avere le mani sul volante e quindi di essere pronto per qualsiasi evenienza sul traffico. Senta, ma è vero che in caso di incidente voi potete avere i dati di traffico telefonico, messaggi e telefonate del guidatore tramite l'autorità giudiziaria per vedere se in effetti in quel momento lì il telefono era in uso e quindi, diciamo, diventa una prova, no? Certo, questo può essere sicuramente un elemento di valutazione su un'indagine per un sinistro stradale. Nel caso a Genova è successo nel caso di un conducente che aveva avuto una, un malore che poi era andato, diciamo, a impattare su un marciapiede con anche danni fisici alle persone. E su alla base delle testimonianze qualcuno aveva appunto riferito che questo conducente era la guida col telefonino, e quindi comunque si sono fatti degli approfondimenti di indagine sulla base poi dell'indicazione del magistrato relativamente appunto all'uso o meno del telefonino in quel momento, nel momento in cui stava conducendo il veicolo. Quindi dobbiamo sapere tutti che se usiamo il telefonino e poi ci capita un incidente non c'è modo di scappare, perché insomma, il giudice può controllare e in quel caso ti può incastrare, no? Diciamo, è tecnicamente un po' questo. Perché per incidenti gravi comunque che hanno a che fare con danni gravi alle persone. Certo. Senta, invece la parte di educazione nelle scuole, educazione stradale nelle scuole, che coinvolge, immagino, anche voi, vigili della Polizia Municipale della città, che tipo di incontri fate, che tipo di ascolto trovate, anche se immagino siano ragazzi che alla patente devono ancora prenderla spesso? Assolutamente sì, nel senso che il nostro, diciamo, da circa 2 anni, come Corpo di Polizia Municipale di Genova, stiamo cercando di proporre a tutti gli istituti scolastici di Genova dei moduli formativi, dalle elementari fino alle scuole superiori, per quanto riguarda l'educazione stradale. Noi sull'educazione stradale crediamo molto e crediamo che anche in questo caso, nel discorso dell'uso del telefonino, sia importante insomma far capire che alcuni comportamenti scorretti pregiudicano il nostro futuro e possono comportare delle conseguenze che poi non sono più riparabili. Quindi devo dire che a tutti i livelli, naturalmente graduando rispetto, diciamo, all'utenza, ai bambini più piccoli fino a quelli più grandi, cerchiamo di portare dei principi di corretto, diciamo, abitudini, sia per quanto riguarda l'uso del telefonino. Immagino che quando toccate, esatto, quell'argomento, non lo so che tipo di reazioni possono suscitare, perché il telefonino è l'oggetto più sacro dei ragazzi oggi, esatto, assolutamente. Non solo dei ragazzi, sì. su queste generazioni che usano questo telefonino non solamente giusto per telefonare, ma per essere connessi continuamente sui social, per chattare, per messaggiare. Quindi per loro è uno strumento importante, e bisogna far capire che questo strumento non deve essere usato, oppure deve essere usato in auto con, diciamo, le prescrizioni che prevede il codice della strada. Noi la ringraziamo. Grazie mille. Il comandante dei vigili di Genova, Giacomo Tinella, grazie per essere stato con noi. 800 24 00 24. Cari ascoltatori, se avete da dire anche su questo, noi siamo qua tra poco, dopo il traffico, appunto, torniamo. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda, in mani sicure. Gondrand.it vi presenta. Allora, eccoci qua, torniamo con gli ascoltatori e abbiamo Marco che ci chiama da Milano. Marco, buongiorno. Buongiorno, io in realtà non chiamo da Milano, ma sono arrivato in un paesino incastonato nel Tortonese, nel bellissimo. Tortonese. Nome nel Tortonese, provincia di Alessandro, si chiama Casasco. Casasco. Abitanti, andatelo a cercare su internet, ma non veniteci perché voglio starci solo io. Bravo, perché è troppo bello. Momento, stavo per dire momento proloco, invece no. Statevene no, a casa vostra. Preferisco, non c'è un bar, non c'è niente. E tu cosa ci fai in un posto dove non c'è niente, Marco? Cioè c'è solo tu che parli con noi al telefono. Sì, no, in realtà ci sono gli abitanti, ci sono vigneti, un posto meraviglioso, stupendo, a niente da Milano, quindi è una specie di oasi, rifugio. Per milanesi che non possono andare troppo lontano? Per milanesi che non possono andare troppo lontano, che non vogliono spingersi oltre l'uscita di Tortona mentre vanno al mare, deviano qua e suggerisco una visita. Milanesi al guinzaglio, va bene. Marco, tu avevi chiamato perché? Allora, io ho chiamato per il personaggio, ma anche poi mi ha appassionato il discorso della scuola. Io mi sono ritrovato da ex studente del liceo classico, ho fatto il Berché a Milano, ho creato, così è stato tutto un caso, però mi sono ritrovato presidente di un'associazione che promuove la scuola, la trovate su internet, si chiama Il Mio Berger e mi piace molto. La classica associazione di ex studenti di quella scuola, così? Ex studenti, ex docenti, nel nostro scopo è raccogliere fondi ovviamente su base volontaria che vanno a finanziare progetti destinati ad esaltare e valorizzare la scuola. Abbiamo il nostro statuto, abbiamo il consiglio direttivo, siamo nati da poco, perché siamo nati a febbraio come associazione, ma in realtà ci siamo incontrati su Facebook da ormai 2 anni, siamo quasi 2000, e insomma è stato, il senso di appartenenza è stato fortissimo e speriamo che la raccolta di fondi che abbiamo iniziato a fare possa in qualche modo, di concerto ovviamente con la scuola, perché noi siamo dipendenti rispetto alla scuola, la scuola e i suoi canali istituzionali. Vabbè, e speriamo che questi soldi vengano tradotti anche in gite, ovviamente in viaggi spot culturali. Per l'associazione Il Mio Berger di Milano, e va bene. Poi essendo la scuola che ha frequentato mio padre, non me la sono sentita di interromperti. Sì. Marco, vogliamo arrivare al dunque? Il dunque, il personaggio è Jack Nicholson. Perché? Jack Nicholson perché ha compiuto 80 anni ed è un'icona, più icona di lui. Compie 80 anni e diciamo... va bene, dai. Ti volevamo sentire, tenere un po' sulla graticola, sì, per capire che cosa aggiungevi. Un po' di suspense su questo Jack Nicholson. Il personaggio era Jack Nicholson, appunto, per il suo compleanno. Eravamo molto, molto orgogliosi del nostro indizio brillante. Perché facci dire questa cosa. Abbiamo detto un personaggio brillante perché, dai. Cosa vi posso dire? Io ho l'aria mossa anche niente. Per il film Shining la facciamo corta, per il film Shining va bene. E comunque Marco, anch'io ho l'aria mossa. Hai vinto il premio di oggi, un libro, sarai contattato, un libro a tema possibilmente, questo è il nostro, diciamo la nostra, cerchiamo di fare così la nostra scelta, verrai contattato dal centralino per ricevere questo libro. Complimenti, bravo. Che altro dire? Basta? Basta. Siamo quasi in chiusura, adesso andiamo a Roma per una bella storia. Allora, il progetto si chiama Sempre Verde, giardini curati dai senza dimora a Roma. È un progetto curato dall'associazione, anzi dal centro di accoglienza Binario 95 di Roma. Diamo il benvenuto a Fabrizio Shedid. Buongiorno. Buongiorno a tutti e buona domenica. Buona domenica anche a voi. Coordinatore del centro accoglienza Binario 95 di via Marsala a Roma. Quindi un progetto per ridare nuova vita a degli spazi che sono, diccelo tu, che ex giardinetti, ex spazi abbandonati sono questi di Roma, Fabrizio? Parliamo di Viale Pretoriano. Sì. Noi siamo alla stazione Termini, il nostro centro di accoglienza, e c'è una, chiamiamolo una aiuola in questo viale di circa un migliaio di metri quadri forse, che è molto bella, però è anche un pochino trascurata. E allora sono spazi che con il municipio, il primo municipio di Roma, abbiamo detto, essendo vicini al nostro centro, abbiamo proposto loro e insieme è nata l'idea. Noi abbiamo i nostri ospiti del centro, tra l'altro qui accanto con me c'è anche Massimo, poi magari potrà dire due parole anche lui, gli ospiti del nostro centro che, contrariamente a quanto si pensa, sono più interessati loro a pulire il territorio che abbiamo intorno, no? In genere si dice chi è senza casa sono queste persone che sporcano, invece è tutto il contrario. Anche perché certo, probabilmente ci passano una parte del loro tempo in questi giardini. Massimo, ci sei? Sì. Eccolo qua. Probabilmente ci passate anche del tempo in questi giardini, quindi ci tenete in qualche più modo di noi. Più di noi a tenerli puliti, è anche così un po'. Questo è chiaro. E noi sempre con l'ausilio del Comune di Roma e dalla parte anche sempre verde, sì? Prima si fa il progetto e prima meglio è. Certo, ma non avete ancora iniziato, quindi siete in attesa di... state scaldando i muscoli? Stiamo aspettando, diciamo, il bestiario e poi i rastrelli e come da richiesta due dei cespugliatori. Uno potrà dire magari, ma che aiuto per una persona in difficoltà questa di essere coinvolto in un progetto per la cura del verde? Invece, non lo so, no, mi immagino che possa essere anche un inizio, no? Un percorso. No, ma ne esce anche una cosa bellissima, perché oltre che c'è... subito, diciamo, ne escono anche, diciamo, un tipo di campo da bocce per i più anziani, per i più... Ah, quindi il progetto non è solamente di recupero. C'è anche il campo da bocce. Sì, il progetto di recupero. Sì, spiego, grazie Massimo, spiego. Sì. L'idea è di pulire e, sì, e poi fare in modo che questo spazio sia restituito alla cittadinanza con un... Ci sono tante idee che stanno venendo, farci uno spazio da bocce, anche perché... Direi che sta vincendo anche... la proposta delle bocce, così a sensazione. Esatto, mi sembra che... Noi ne siamo felici. Per bambini, per esempio, insomma, quindi l'idea è proprio di farlo... Le idee non mancano, le idee non mancano, le braccia adesso ci sono, il cuore pure, noi dobbiamo purtroppo chiudere. Ma vi siamo molto contenti di questa notizia. Sì, sì, sì, molto, grazie a Fabrizio Sharid, ma anche a Massimo, tutti del centro accoglienza binario 95 di Roma, che ha dato il vita a questo progetto sempre verde. Ce ne sono tanti di progetti così in tante città italiane, è bello ogni tanto, io ho perso la voce, raccontarne qualcuno. Se volete scriverci si può fare a radio24.it, racconteremo anche i vostri. È tutto, molto ci volentieri, è tutto. Sentiamo sabato prossimo. Sì, signori. Buon viaggio a Parigi, mi raccomando. Grazie. Raccontaci com'è andata poi la giornata elettorale, clou. Sono preoccupatissimo, cioè, e soprattutto mia mamma che vede il numero degli attentati che aumenta e sono molto preoccupato. Grazie ad Andrea Piana, Claudio Schiattone, Lorenzo Nespoli, Carmelo Loricelli, regia. Ci risentiamo sabato prossimo. Ciao da Alessio Maurizio. E ciao da Carlo Gabardini e a chi ci ascolta in podcast.